Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte 19. Insomma, si sono creati così questi scilli, in cui noi riempivamo il corridoio di merda e loro facevano intervenire di forza l'impresa di pulizie per ripulirlo, e così via. Ma alla fine ci hanno concesso i colloqui per cercare di allentare un po' la tensione. La direzione, anzi il ministero, perché vista la situazione che c'era chi decideva direttamente dal ministero, ci hanno concesso un colloquio al mese col vetro divisorio. E così China è arrivata al colloquio, è arrivata senza che... Non mi avevano neanche preavvisato, mi hanno chiamato e mi hanno portato nella sala colloqui dove c'erano i vetri. Era la prima volta che vedevo quella sala, avevano costruito tutto nuovo e China era già lì che mi aspettava, era seduta dietro il vetro quando sono entrato. C'era un citofono sotto il vetro, dietro una piccola grata, quadrata. Mi sono abbassato per parlarci dentro, ma dall'altra parte China mi ha fatto segno che non sentiva niente. Ha provato anche lei a parlare dentro al citofono dalla sua parte. Ha provato anche lei a parlare dentro al citofono dalla sua parte, ma non sentivo niente. Neanche lei. Io ho dato un paio di pugni sulla grata, ma non è cambiato niente. Evidentemente i citofoni erano staccati, li avevano staccati apposta, in modo che per riuscire a sentirsi bisognava parlare a voce molto alta, bisognava gridare quasi, e così le guardie potevano sentire tutto, una situazione impossibile. China aveva fatto 1000 chilometri per venirmi a trovare e altri 1000 doveva fare per tornare a casa e non potevamo neanche parlarci, dovevamo gridare per sentirci. Mi sembrava più piccola, più magra, era vestita elegante, non come me la ricordavo, non l'avevo mai vista così. Aveva la gonna e una giacca elegante, con le spalle gonfie, imbottite, come doveva essere la moda allora. Si era tagliata i capelli, ce li aveva corti, era più di un mese che non la vedevo, aveva dei piccoli orecchini e un orologino al polso. Lei, che non aveva mai portato orologi, era lì seduta su un blocco di cemento, un cubo di cemento che faceva da sgabello. Il vetro era spesso, era doppio e sporco, non era del tutto trasparente, era verdastro. Vedevo China un po' distorta, mi spostavo un po' a destra e un po' a sinistra per cercare di vederla meglio. Nella sala c'erano 4 posti col vetro per i colloqui, come gli sportelli delle banche, e le guardie stavano in una stanza alle nostre spalle e ci guardavano da un'apertura quadrata nel muro. Appena mi ha visto entrare nella sala mi ha sorriso, dietro il vetro, poi quando mi sono avvicinato ha cambiato espressione, ha stretto gli occhi e ha cominciato a fissarmi, ma non mi guardava in faccia, guardava più giù, ho capito che guardava il mio maglione, che era tutto macchiato di sangue, era lo stesso maglione che avevo ancora da quella sera, e allora ho detto, non è sangue mio. Macchina continuava a fissarmi, a fissare il maglione, e mi sono accorto che non sentiva, mi sono accorto che non si era neanche accorta che le parlavo, mi sono accorto perché poi anche lei ha detto qualcosa, ha mosso le labbra, ma non ho sentito la voce. Io ho pensato, tanto è inutile, anche se faccio casino, potevo chiamare il brigadiere e il maresciallo, ma sapevo già come andava a finire. Avrebbero finto, come di regola, avrebbero detto che i citofoni erano rotti, che non era colpa loro, ma che per il momento era così, se volevo era così, se no potevo rinunciare, e tutto questo avrebbe soltanto fatto sprecare il tempo del colloquio, che era già poco. In quel momento è entrato un compagno, aveva tutte e due le braccia ingessate, aveva un taglio sulla testa, gli avevano dato un sacco di punti, e per dargli punti lo avevano rapato a zero. Ci siamo fatti solo un cenno di saluto con la testa, perché non ci stavamo simpatici. A me proprio questo non mi stava simpatico. Quando sono entrati i suoi genitori e l'hanno visto in questo stato, sono rimasti stravolti. Lei adesso mi guardava le unghie nere per il sangue coagulato, per le manganellate. Le ho detto a alta voce: sto bene, tu? E lei ha fatto un mezzo sorriso tirato e alzato le spalle, poi mi ha chiesto: e adesso? Io ho scosso la testa come per dire non lo so. Lei ha cominciato a dirmi che mi salutavano questo e quello, sentivo i nomi, tutti i nomi e i soprannomi dei compagni che mi mandavano i saluti, ma mi faceva un effetto strano, mi faceva un effetto lontanissimo, quasi di gente sconosciuta e di gente morta e non vedrò mai più, e sentivo che in realtà non me ne fregava niente se mi salutavano, ma mi faceva incazzare, ma mi dispiaceva che China se ne accorgeva, perché aveva fatto 1000 chilometri per venire fino lì, e mi dispiaceva. Cercavo di sorridere, ma mi sembrava che stavamo sprecando il tempo, tutto il tempo del colloquio, che era già poco, perché stavamo dicendo cose che non servivano a niente, ma non sapevo neanche cosa poteva dirmi, cosa poteva servirmi, stavo diventando nervosissimo, sentivo per metà quello che mi diceva, ma non le chiedevo neanche di ripetere quello che non capivo. Poi di colpo è stata zitta. Io fissavo il muro verdastro, dietro le sue spalle, soffici e gonfie. Non sapevo cosa dire, mi innervosivo, sempre di più, per il tempo che passava, per il tempo che stavamo sprecando, ma non sapevo proprio cosa dire, cosa fare per usarlo. Siamo stati zitti per un po', poi China ha guardato l'orologio, che era un gesto che non le avevo mai visto, e io ho detto: perché non mi scrivi? E lei ha detto: perché non mi scrivi tu? Quando China se n'è andata, ho pensato che questa storia dei citofoni staccati, che avevo pensato, non aveva senso, perché se volevano veramente sentire tutto quello che si diceva durante il colloquio, invece di obbligarci a gridare, era molto più facile, molto più produttivo per loro lasciare i citofoni in funzione, da cui si poteva più facilmente sentire tutto, pensando anche che non si era sentiti e si poteva, se si voleva, anche registrare tutto quello che dicevamo nel colloquio. Dopo questo colloquio non ho più visto China. Mi è arrivato solo una lettera, una o due settimane dopo, che cominciava dicendomi che per un po' non mi avrebbe più scritto. Dopodiché, allora noi ci siamo posti il problema di come cominciare a fare un'altra lotta. Però a quel punto il problema diventava quello della limitazione delle ore d'aria, che erano ridotte soltanto a un'ora d'aria la mattina, e anche quello della mancanza nei corridoi dei lavoranti fissi, che limitava al minimo la nostra possibilità di comunicazione interna, e quindi la possibilità di accordarci su come muoverci insieme. Allora, a questo punto è diventato indispensabile trovare una soluzione per avere una comunicazione interna maggiore. Allora all'interno delle celle si è pensato di forare i muri da cella a cella, in modo che si potesse comunicare direttamente. Non dico buttare giù tutto il muro, però almeno fare dei buchi da dove parlare da cella a cella. E si è cominciato a farlo, e effettivamente in quasi tutte le celle sono stati fatti dei buchi, e così c'è stata la possibilità di avere una comunicazione diretta tra noi. Si bucava il muro con le ultime sbarre che si riuscivano a smontare dalle finestre e dai letti, e con sbarre di ferro che i lavoranti che venivano lì solo per portare il cibo riuscivano a passarci in maniera veramente spericolata. Però ovviamente ci volevano ore e ore, per esempio per smontare i letti che erano fissati per terra col cemento, per riuscire a ricavare delle sbarre e per riuscire a fare questi buchi nel muro. Le guardie sapevano tutto, è evidente, si picchiava tutto il giorno e quindi tutto avveniva sotto gli occhi delle guardie. C'era la preoccupazione, il dubbio. Sempre, se entravano e se entrava poteva succedere un altro macello, però non c'era altra soluzione. Però, proprio in previsione del fatto che le guardie sarebbero potute entrare, si è cominciato a praticare un altro metodo. E questo metodo consisteva nel barricamento notturno della cella, con i turni di guardia da parte nostra, per non correre il rischio di farci sorprendere nel sonno durante una loro eventuale irruzione. Il barricamento delle celle consiste nell'infilare un oggetto, uno spessore, che poteva anche essere solo una penna biro o una scheggia di legno, tra il cancello e la blindata, perché la distanza che c'è tra il cancello e la blindata è solo di pochi millimetri. Per cui è sufficiente fare uno spessore, cioè infilare a forza qualcosa tra il cancello e la blindata, per fare in modo che quando le guardie dall'esterno infilano la chiave, la porta preme sul blocco della serratura e non riescono ad aprirla. In quelle condizioni loro non possono entrare e quindi c'è tutto il tempo per organizzare dall'interno una resistenza. Ovviamente loro hanno i loro metodi per sbarricare, che consistono per esempio nel prendere un idrante, che c'è sempre nei corridoi delle sezioni. E con questo grande tubo che si srotola infilare il getto dentro lo spioncino. E allora, evidentemente, con questo getto fortissimo che spazza la cella, tu non puoi fare niente, nessuna resistenza, perché ti sbatte contro il muro e loro intanto sbarricano mentre tu non puoi fare niente. Insomma, tutte le notti era diventata pratica costante quella di barricarsi in cella e di fare dei turni di guardia per controllare il movimento nel corridoio. Eravamo riusciti anche a procurarci delle schegge di specchio, sempre attraverso i lavoranti che ci portavano il cibo, e con queste schegge di specchio riuscivamo a metterle fuori dallo spioncino e in questo modo riuscivamo a vedere tutto quanto il corridoio fino in fondo e a controllare i movimenti delle guardie. È stata una pratica costante per parecchio tempo, questa del barricarsi in cella la notte e di fare i turni di guardia, e passavamo il tempo giocando a carte, perché le carte ci erano state concesse. Stavamo 23 ore di seguito nelle celle e è andata avanti così per un bel po' nelle celle. Quando la forma di lotta della guerra batteriologica è venuta meno, allora, attraverso questa comunicazione, attraverso i buchi che avevamo fatto tra le celle, è cominciato un dibattito per vedere quale nuova forma di lotta adottare, per fare mollare la direzione. Su altre cose, e allora era chiaro che l'obiettivo massimo a cui si tendeva, con tutto quel crescendo di lotte, era di distruggere il carcere, nel senso di distruggerlo proprio come struttura fisica. Ma di fatto era ridicolo, perché le condizioni in cui ci avevano messo erano che non avevamo niente da distruggere e non avevamo nemmeno niente che poteva diventare un oggetto da usare per la nostra lotta. Intanto perché le celle non era arredata, era completamente vuota e quindi non potevi minacciare di sfasciarla, non c'era niente. E cosa potevi fare se non c'era niente da sfasciare? Allora il passaggio offensivo successivo è stato quello dell'inondazione. E così dalla guerra batteriologica si è passati all'operazione Niagara. In tutte queste lotte, quello che è stato messo in gioco, quello che è stato risolutivo, è sempre stata questa grande memoria, portata soprattutto dai comuni. Questa accumulazione di conoscenze, di un sapere di lotta dentro il carcere, di un sapere accumulato nel tempo, e quello che era risolutivo, era soprattutto, erano evidentemente, le proposte dei vecchi carcerati, di gente che in carcere ci stava da 10-20 anni e che aveva provato di tutto nelle lotte. Quindi adesso, come forma di lotta dalla guerra batteriologica, eravamo passati all'operazione Niagara, che è stata la nostra nuova forma di lotta. L'operazione Niagara consisteva nell'allagamento della sezione. L'allagamento della sezione consisteva nel fatto che a una certa ora della giornata, concordata tutti insieme, tutti quanti con degli stracci ricavati, stracciando le lenzuola che ci erano state finalmente concesse e le coperte, si facevano degli stopponi e con questi stopponi si turava il cesso, si turava il buco del cesso e si turava il buco del lavandino. Dopodiché, con strisce di materassi di gomma piuma, strisce di gomma piuma che si strappavano dai materassi, si infilavano nello spazio che c'è tra la porta blindata e il pavimento, e contro questa gomma piuma in più si mettevano ancora strisce di coperta, in modo da non permettere che l'acqua uscisse dalla cella, che uscisse fuori nei corridoio. Dopodiché aprivamo tutti i rubinetti e fissavamo il bottone dello sciacquone in modo che l'acqua uscisse a getto continuo. E questo lo si faceva nelle ore notturne, dove i turni di guardia erano ridotti e comunque creava maggiori problemi, perché durante la notte lo stato di allarme generale dentro il carcere è molto più fastidioso che lo stato di allarme di giorno, perché tutte le guardie si devono alzare dal letto e tutto diventa più snervante. Allora, durante la notte, magari alle 3, alle 4 di notte, chiudevamo i buchi, chiudevamo il lavandino, stoppavamo il lavandino, stoppavamo il buco del cesso e inondavamo le celle, e in tutte le celle uscivano ettolitri e ettolitri d'acqua finché l'acqua ci arrivava fino alle ginocchia. L'acqua cresceva nella cella, che era tappata dappertutto ermeticamente. Tu fai il conto quanti ettolitri d'acqua c'erano. L'acqua saliva, saliva, e quando ti arrivava alle ginocchia si toglieva lo spessore sotto la blindata che chiudeva il passaggio tra la porta e il pavimento, e l'acqua si gettava come una cascata da ogni cella. Ettolitri e ettolitri d'acqua si gettavano in tante cascate nel corridoio e inondavano in pochi minuti tutta la sezione, e lì la lotta era dannosa, perché, essendo al pian terreno, l'acqua si accumulava nei corridoi, restava lì e succedeva un pantano. E questo l'abbiamo fatto anche mentre era in corso anche la guerra batteriologica, per cui il pantano veniva fuori proprio una cosa immonda, una cosa indescrivibile immonda. Le guardie camminavano ormai in un pantano. Oltre al fazzoletto sulla faccia, adesso dovevano mettersi anche gli stivaloni di gomma. Mentre quest'acqua usciva a cascate dalle celle, ci buttavamo dentro anche il detersivo, in modo che faceva un'enorme schiuma. E qualcuno faceva anche delle barchette, con la carta del giornale. Buttavamo le barchette dallo spioncino, che navigavano nei corridoi, trasportate dalle correnti d'acqua, schiumosa. Era una vera e propria inondazione, e questa è stata un'altra forma di lotta praticata. E questo creava evidentemente parecchi problemi alle guardie. Un'altra forma di lotta utilizzata è stata quella di provocare dei cortocircuiti che facevano saltare la luce in tutto il carcere. Era l'operazione blackout e tutto il carcere restava senza luce. C'era un compagno che era elettricista e sapeva tutto sui sistemi elettrici e quindi era capace di provocare dei cortocircuiti, smontando non so bene cosa, io non l'ho mai fatto, per cui non lo so, faceva succedere dei cortocircuiti, e quando c'era un cortocircuito per alcuni secondi si sentiva un rumore fortissimo che si metteva in moto, era il rumore dei gruppi elettrogeni esterni che riattaccavano immediatamente la luce. Però erano momenti di panico, perché quando durante la notte va via la luce in tutto il carcere, le guardie si mettono a correre in su e in giù con le pile. Insomma, era una cosa molto snervante per loro, ma evidentemente era snervante anche per noi, perché da un momento all'altro ci aspettavamo una reazione, ci aspettavamo un intervento massiccio. Libri ribelli. Ridotto già vecchio. libri ribelli.